Funzione della lettura. Nella lettura ascolto queste parole: beati i puri di cuore perché vedranno Dio. Ecco una frase molto breve ma soave e piena di molteplici sensi per il nutrimento dell'anima, offerta come un grappolo d'uva. L'anima, dopo averla diligentemente considerata, dice dentro di sé: qui ci può essere qualche cosa di buono. Rientrerò nel mio cuore e cercherò di comprendere e di trovare, se mi sarà possibile, questa purezza. Essa infatti è cosa preziosa e desiderabile, lodata da tanti passi della scrittura, i cui possessori sono detti beati, alla quale è promessa la visione di Dio, che è la vita eterna. Desiderando l'anima spiegarsi meglio tutto ciò, comincia a masticare e a triturare l'uva, ponendola quasi sotto il torchio, mentre stimola la ragione a indagare che cosa sia e come si possa acquistare questa purezza così preziosa.